Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il tempo corto di un dubbio per poterli cantare. Ogni giorno, due ore da onesti e due per il malaffare. Due ore da galli e mille da zanzare. Infatti sono altamente deluso, signor Pardo. Due per cantare messa, per ritentare il gioco, per tutta la scommessa. Ciao a tutti, Franco Petrini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia. Due ore, oggi e ogni giorno. Lasciare e serviranno tutte, ragazze, per parlare di classifiche in controluce che sembrano quasi riaperte, triplette, pugni e schiaffoni, errori, rigori tragicomici, flop Rosso Ferrari, palle, sì, anche da tennis. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Cominciamo bene. 800 24 00 24. Ripeto, ciao Pierluigi Pardo. Ci ciao, sei, come va? Ho sentito un rumore stranissimo, sembrava Pierluigi, ti licenzio. Provenire dall'altro mondo. Senti, parlare di un destro per riaprire il campionato mi sembra eccessivo. Anche se alle 9 di stasera la Juventus avrà perso col Livorno, allora saremo davvero nel campo dell'imponderabile. Guarda, facciamo un gioco, facciamo finta. Facciamolo. Che aperto. Secondo me stasera la Juve vince con Livorno, non è che ci voglia il mago Telma per fare questa previsione, diciamo abbastanza normale. E quindi, non so, quante possibilità ha di vincere la Juve stasera? Il 90%? L'80%? 90, io dico 90. 99, perché lascio un 1 all'imponderabile, dai. 90, io dico 90, però sono 9 su 10, per cui insomma diciamo che... Potrebbe succedere qualcosa di veramente imponderabile. E secondo me, anche se stasera si dovesse succedere l'imponderabile, la Juve rimarrebbe ampiamente favorita. Certo, io capisco tutto, capisco la voglia di molti commentatori di vedere un campionato riaperto, che sicuramente sarebbe affascinante, no? Testa a testa fino all'ultima giornata. Credo che qualsiasi spettatore neutrale sarebbe contento di questo. Ah, noi mettiamo la firma col sangue, due ore tutti i giorni, se riapre il campionato facciamo orbotto, cioè, però sinceramente la Roma ha già fatto veramente il suo dovere, no? Per onorare questo allargamento a due ore, perché ci ha fatto insomma vedere tre vittorie in una settimana, 9 punti, e ha accorciato. Però insomma mi sembra veramente troppo presto, insomma, perché io non vedo una Juve in crisi. Io ho visto una Juve stanca a Napoli, ovviamente con un altro obiettivo importante che può conquistare, soprattutto con la finale in casa. Insomma, io per ora veramente non vedo di manovra. Detto questo, vediamo, insomma, siamo curiosi. Stasera la partita alle 19 ce la vediamo, alle 23:20 c'è Tiki Taka, e quindi c'è Hernanes, ospite in studio, e fammi sottolineare questa cosa, fammi anche proprio ringraziare in maniera scudo crociata quasi l'ufficio stampa e l'Inter, perché comunque insomma noi siamo nel calcio da tanti anni, non è affatto scontato che in un momento come questo, indipendentemente dal risultato, si prenda l'impegno e lo si onori, lo si rispetti. Poi secondo me, senti, ma così alla brutta Mazzarri lo licenziano, secondo te? Ma secondo me no, è chiaro che io, ecco, non credo che girava ieri sera che non c'è l'out sull'Europa League. Secondo me, se l'Inter dovesse fallire l'obiettivo Europa League, Mazzarri rischierebbe grosso, questo lo penso. Poi Tuirne deve pagare tre, però Pierluigi, Tuirne dovrebbe pagare tre di allenatori, Stramaccioni, poi va bene, si transa quello che vuoi, però in un momento in cui l'Inter ha in mano, cioè l'Inter è garanzia delle banche per investimenti futuri, lo sappiamo bene, in un momento in cui si fa la conta dei quattrini, probabilmente c'è da considerare anche questo, perché sono contratti che chiamano milioni, Mazzari, sì, Stramaccioni, sì. E Mister X, vario ed eventuale, no? Ma sì, io ti dico sinceramente, secondo me Mazzari, l'ho detto ieri pomeriggio, lo ripeto oggi, non ho cambiato idea. Se non cambia il progetto, cioè se non c'è qualcosa di clamorosamente importante, di clamorosamente nuovo, di clamorosamente roboante dal punto di vista dei Danè, sì, quindi se la squadra sarà questa con qualche innesto, Mazzarri va benissimo. È un allenatore esperto, un allenatore che nella sua carriera ha sempre tirato fuori il meglio dei giocatori. Quest'anno non ci sta riuscendo, perlomeno non ci sta riuscendo come avrebbe voluto e come in tanti si aspettavano. Però da qui a fare una rivoluzione in preda al panico, in preda, sì, a meno che tu non abbia un'alternativa clamorosa, ripeto, ma l'alternativa clamorosa ovviamente la ce l'hai. Se gli puoi offrire 100 milioni di investimenti, ma sai, l'alternativa clamorosa può essere anche un'idea diversa, perché non mi sembra che Garcia sia stata un'alternativa clamorosa, eppure è stato qualcosa di clamoroso per la Roma, perché questa Roma adesso ha una faccia, ha un progetto, ha un futuro, è la squadra esteticamente secondo me più bella d'Italia. Quindi al di là dell'idea clamorosa del Mourinho, del Lancelotti o di questi, mamma santissima, qui l'alternativa clamorosa può essere un'idea nuova e originale, magari. Stai lì per due ore insieme, 800 24 00 24, traffico, poi torniamo. La trasmissione è tua, è una favola. Tutti convocati. Presidente, più deluso o arrabbiato stasera? Non sono né deluso né arrabbiato. Solo una cosa. Scusa. Sì, sono una cosa. Allora, posso parlare con te? Allora, parla. Oh, gira. Stiamo picchiando, sì. Un destro per riaprire il campionato, ho detto prima, De Laurenti stia quasi preso in parola, scrive Gianni. Zuffa anche televisiva ieri sera tra De Laurenti e un tifoso, Pardo, ci sei? Comunque, zuffa anche televisiva ieri tra De Laurentiis e un tifoso dopo la sconfitta del Napoli, nervi a fior di pelle. D'altra parte il Napoli insomma non riesce a vivere normalmente, l'incapacità, l'impossibilità quasi di essere normali anche sul campo, poi ne parleremo, approfondiremo l'argomento. Il Napoli continua a divertirmi come la Roma, però mentre la Roma è qualcosa di ormai di estremamente solido e anche di estremamente interessante dal punto di vista progettuale, perché sappiamo bene come gioca, sappiamo bene questa cattiveria agonistica che ha nel chiudersi, nel riaprire, nel ripartire. A proposito, c'è ormai serissima secondo me la candidatura di Destro per i mondiali. Io vi sfido a dirmi se quale alternativa abbiamo rispetto a questo giocatore. È tornato Pardo, ragazzi. Eccolo. No, stavamo parlando degli schiaffoni di De Laurentiis, Pierluigi. Sì. Nervi a fuori di pelle a Lanna. Sì. Ho visto gli schiaffoni, sono arrivato qualche istante dopo. C'era questo tifoso molto, molto agitato, nel senso molto scosso, che non si aspettava. Sì. Cosa ti devo dire? Io ti dico che nel mondo del calcio è pieno di provocatori, cioè questa cosa non giustifica minimamente. Però bisogna essere appunto bravi nel controllare la propria. Questo ragazzo, da quello che ho capito, non era un provocatore, era semplicemente uno che voleva fare veramente due domande, esprimere un punto di vista con il suo presidente. Quindi da questo punto di vista, da quello che abbiamo capito, mi sembrava un ragazzo tranquillo. Sì. In generale sappiamo che la vita dei dirigenti, dei giocatori, spesso è sottoposta a una serie di aggressioni verbali e di cose di questo tipo che possono portare a un po' di adrenalina poi dopo una sconfitta, però questo non giustifica sicuramente, insomma. Ma spero che troveranno una soluzione, si chiariranno, ci daranno delle scuse, credo che sia la cosa sana. Sì, è un segno di, non è una cosa bella, ecco, quella che abbiamo visto ieri, su questo non ci sono dubbi. No, vabbè, ma sai, io penso che anche il tifoso che va a chiedere chiarimenti al suo presidente sia una, alla fine, anche una bizzarria tutta italiana. Poi c'è un momento e momento. Io non voglio, ben lungi da giustificare De Laurentiis, però insomma questa mania di andare a parlare con i protagonisti da parte, in questo caso non era un ultra come stai dicendo giustamente, però questa mania di essere protagonisti, andare a parlare con i giocatori, andare a parlare con i presidenti, ma insomma andate a casa, no? Non è meglio. 800240024. Il sinistro di destro invece sulla faccia di Astori non è nel campo dell'imponderabile ma nel campo dell'inutile. Guarda, io ti dico, brutto gesto questo di destro, magari interverrà la prova televisiva e così via secondo regolamento, ma non enfatizzerei, preferisco, la dico anche grosso, un combattente qualche volta un po' scomposto come è stato destro ieri rispetto a un tacchino freddo, io sempre. Ma sicuramente, anche perché poi la critica che... tu devi sapere che a Roma... insomma, io ho contatti frequenti con la capitale e in maniera abbastanza incredibile ho capito, sono arrivato un po' di ritardo perché non sono praticamente sveglio, ma poi nelle settimane ho capito che c'era tutto un dibattito su destro, nel senso c'era un partito dei destro scettici molto forte. E probabilmente da ieri pomeriggio questo partito è un po' in ribasso, però insomma lui ha subito per questa settimana molte critiche di gente che dice che essenzialmente è un tacchino freddo, quindi diciamo che ieri non è stato un tacchino freddo, no. Ha sicuramente esagerato quel gesto, anche quello non è un bel gesto al di là del discorso della prova definitiva che non dovrebbe scattare perché credo che l'arbitro abbia visto, ma in ogni caso insomma la partita di ieri e il momento che sta vivendo conferma che ha delle grandissime doti. Mi sembra che siamo proprio la primavera in fiore, cioè, si trova improvvisamente quasi l'imbarazzo della scelta, perché insomma anche a centrocampo hai visto ieri sera Parolo, hai visto Verratti col Paris Saint Germain, cioè, mi sembra che forse tanti giocatori magari inconsciamente, non è il caso di destro che è stato a lungo infortunato, si sono risparmiati e adesso si trovano nelle condizioni ideali. Sì, poi in questo momento Osvaldo è in difficoltà, ecco, tanto per Osvaldo non porterei neanche dipinto, cioè è reduce comunque da una stagione fallimentare, mettilo in Inghilterra, mettilo alla Juventus, finora Osvaldo non ha combinato nulla, è un giocatore che a me piace, però ai mondiali si va anche sul... Dai, la facciamo i nomi, Balotelli, destro, poi? Immobile, Cassano, sì. Girardino, perché? Girardino perché? Pare sia in pole position. Non ne sono così convinto. Comunque e Cerci. Ci stiamo scordando qualcuno? Penso di sì, perché Giuseppe Rossi che adesso è tribuna, Giuseppe Rossi se sta bene, secondo me va a è titolare. Penso. Sì, ma però dai, siamo al 7 di aprile, mi sembra anche tardi. Per il momento Giuseppe Rossi sta provando a guarire, sta provando a tornare in campo, è in tribuna che esulta ai gol di Cuadrado, però diventa difficile così immaginare un giocatore che teoricamente ha questa importanza nella nazionale, che però il 7 di aprile è in tribuna e lavora col fisioterapista, quindi diventa difficile. Girardino, non sono così convinto, anche lui reduce da una stagione esaltante. Allora a quel punto, caro Pierluigi Pardo, se vogliamo portare un anziano, un giocatore non di primo pelo, un esperto, allora c'è quello che ha segnato nel derby di Verona. Per Toni, ancora Toni, Luca Toni, nella storia dell'Hellas Verona, 16 gol in Serie A, come lui nessuno mai, nel segno di Toni. El Cadduri, Meggiorini, dentro, Immobile, sinistro, Immobile! E vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io! Cervinho, palla sul destro, in mezzo per destro! Tocco per destro, è tutto solo, destro, va a puntare Abramov, destro! Florenzi, il cross, verso destro! E sono tre! C'è a parlare d'amore e scoprire che va sempre a fine di piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io! Destro, 13 gol in 1079 minuti di gioco, di impiego. I numeri sono solo numeri. 83, 84. Sono solo numeri, ma solo Messi e Agüero in Europa hanno una media gol più alta. No, ma soprattutto la distanza dalla testa della classifica marcatori a questo punto è veramente minima, e quindi comincia a essere un dato statisticamente questo di un gol ogni 80 e passa minuti, mm-hmm, molto rilevante. Quando con 13 gol cominciano a essere numeri veramente, ma pesanti, certo, cioè, non c'è, ormai non c'è quasi un dubbio che se avesse giocato quei 3 mesi di stagione che gli sono mancati, adesso sarebbe in testa la classifica dei cannonieri, insomma, sì. Difficile pensare che uno che fa 13 gol in 3 mesi non ne possa fare altri 6. Ma poi ai mondiali, quante volte l'abbiamo detto, conta anche l'abbrivio con cui arrivi, no? Il fatto di essere un uomo destino. Anche ieri Immobile ha fatto un gollonzo, se vogliamo, perché un tiro sporco, deviato, non sarebbe mai finito in porta, deviato, vuol dire che le stelle sono con lui, che è il suo anno, eccetera. Intanto, io ringrazio, lo dico pubblicamente, sto leggendo un sms, Nicola Lombardo dell'ufficio stampa del Napoli, che mi informa che De Laurentiis e quel tifoso si sono già chiariti ieri sera al telefono, quindi proviamo a chiudere questo capitolo. Angelo da Verona, Luca dalla provincia di Milano, siete tutti convocati fino alle 16, ogni giorno 800 24 00 24. Buongiorno Angelo, domani siamo da lei, a Verona, Vinitaly, io e Pardo, diretta da lì domani e dopo, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione, è un piacere parlarvi. Vorrei solo porvi un quesito, sì, su Mazzarri, che non mai una volta l'ho sentito questa curiosità mia, ma perché Mazzarri con gli esterni che ha, che sono secondo me mediocri, non cambia modulo e non passa alla difesa a 4, a un centrocampo a 4 con 4 centrocampisti e 2 punte in questo momento in cui l'Inter sta arrancando da tutte le parti? Ecco, questo è un quesito che non ho mai capito, perché un allenatore non possa cambiare, perché, visto i risultati, Angelo, scadenti, perché che lui ha sempre, perché lui ha sempre giocato così, cioè lui è un integralista di quel tipo di modulo, per lo stesso motivo, cioè per quel modulo, ricordiamo, era stato preso anche a Napoli, no? Sì, ed è un po' lo stesso discorso di Benitez, che poi l'ha sostituito sulla panchina del Napoli, che abbiamo scoperto forse più integralista di quello che ci aspettavamo. No, a me la cosa che sorprende di più dell'Inter nelle ultime partite è che è stata 2 volte in vantaggio contro il Bologna, era stata in vantaggio 2-0 a Livorno, cioè le grandi qualità e i piccoli difetti di Mazzarri, perché io la penso così, io penso che Mazzarri sia un bravissimo allenatore, non cambio idea per 3 mesi sbagliati, c'è una carriera che parla per Mazzarri, poi si può discutere che non sia... E questo è un dibattito, che non sia un allenatore da top top top club, perché gioca sempre un po' di riflesso, no? Gioca sempre un po' sull'avversario, e chiaramente più tu sei forte, invece più hai bisogno di imporre il tuo gioco sempre e comunque. Questa è una domanda sulla quale io ancora non ho un'opinione certa, e si può discutere, ma che sia un allenatore ad alta performance, c'è una carriera che parla, no? È uno che praticamente non ha mai fallito, mai, tutta la sua carriera. Questo è il primo anno nel quale sta faticando così tanto. La sua caratteristica principale, lo sappiamo, è la capacità di esaltarsi negli spazi, nelle ripartenze, la squadra che gioca di riflesso benissimo da sempre, la sua. E la cosa che mi sorprende di più e che mi preoccupa di più per l'Inter di questi tempi è proprio questo, cioè che insomma una qualsiasi squadra di Mazzarri che vince 2-0 fuori casa con Livorno non pareggia, o che va in vantaggio 2 volte in casa contro il Bologna. No, ma infatti questa non somiglia a una squadra di Mazzarri, Pierluigi, cioè la squadra di Mazzarri prima di concedersi in questo modo agli avversari, di regalare, se vogliamo, in questo modo agli avversari, insomma dovevi passare sui loro corpi, questa non mi sembra una squadra di Mazzarri, mi sembra una squadra senza una faccia e anche un po' molle, se vogliamo. 800 24 00 24, Luca da Milano, dopo la borsa insieme fino alle 16, a dopo. Tutti convocati. Si sta candidando per forza di cose, facendo tutti questi gol e soprattutto stando bene, perché insomma la condizione sua fisica del ginocchio era la cosa che preoccupava di più. De Rossi, a proposito di destro, oggi trovo gli ascoltatori, oggi primo giorno del nuovo format delle 2 ore, 800 24 00 24, 2 ore di tutti convocati ogni giorno. Beh, gli ascoltatori che scrivono sono particolarmente antipatici e molesti, ma vabbè, sarà l'adrenalina del weekend come questo. Teo, Dela e il tifoso sono chiariti, quindi Dela può massacrare di botte chi vuole, basta chiarirsi. E poi mi dice, sei ridicolo. Vabbè, che discorso è questo? Luca, provincia di Milano, buongiorno. Sì, Sì, buongiorno gente, grazie per la convocazione, saluto anche Pardo. Eccoci. Non mi trova, non ero d'accordo col discorso De Laurentiis e il tifoso. Cioè? De Laurentiis, caspita, si infuria sempre, fa un po' quello che vuole, aggredisce i tifosi, dà degli scorniacchiati agli altri presidenti, minaccia ospedali di far cause. Mi sembra che a volte esagero un pochettino. L'ospedale, quindi... Capri, voleva far caso a Capri, perché ha gli scogli che spormono dal mare. No, vabbè, ma al di là di... cosa facciamo? Ma non stiamo mica... Allora, no, ma non stiamo... a Capri si scogli, ma come li fate? Dai, cioè, voglio dire un po' di... No, ma non è che stiamo giustificando De Laurentiis. Ma assolutamente. Cioè, non è che stiamo dicendo De Laurentiis ha fatto... Ma stiamo scherzando? Non è che stiamo dicendo ha fatto bene a mettergli le mani addosso? Questo non l'ha mai detto nessuno e... saremmo dei fessi a pensarlo. Quindi Luca, che dobbiamo fare con De Laurentiis? No, niente. Che dobbiamo dire a De Laurentiis? Parlo di pallone lunedì e si ride, cioè, quello bisogna fare. Però non ero d'accordo che il tifoso non doveva andare dal presidente a lamentarsi. Forse no, su quello non sono d'accordo neanch'io. Ma non sono d'accordo con Carlo. Sono d'accordo che il tifoso con civiltà possa assolutamente... Con civiltà, non come un user. Questo l'ha fatto con civiltà. Adesso non so bene come è finita la cosa, se gli ha messo le mani addosso, però beh, sì, comunque io come stato pura parapiglia è documentato, quindi come pura attenuante generica dico che in un mondo certamente di privilegiati, di gente che fa un sacco di soldi e vorremmo essere noi a giocare in Serie A, in Champions League o a fare i presidenti o i direttori sportivi, quindi è chiaro che stiamo parlando di una serie di persone molto fortunate e molto privilegiate, però in questa fortuna clamorosa che hanno c'è, e questo secondo me gli va riconosciuto, spesso questa rottura di scatole di gente che viene lì, che provoca, e non è il caso del tifoso di ieri, perché il caso del tifoso di ieri invece è un caso di assoluta civiltà. Sul discorso che abbiamo dato, che ha dato Carlo, il comunicato che ci è arrivato, la notizia ci è arrivata dall'ufficio stampa del Napoli, è una notizia ufficiale, quindi il Napoli ci sta dicendo che si sono chiariti ed è una notizia, punto. Sì. Non finita, cambia poi quello che è successo ieri. Senti, ho un'idea che ieri, i nostri ascoltatori possono fare. Sai, c'è un altro che ieri si è lamentato di intromissioni sonore, ma poi ha perso. È Murray, Andy Murray. Italia batte Gran Bretagna nel tennis. Andiamo lì, Pier. Siamo in semifinale, sicuramente sarà uno scalino in più di quello che aveva fatto l'anno scorso, dopo tanti anni, come avete detto, via, il gruppo c'è sempre stato, ora lo stiamo dimostrando, quindi ovviamente bisogna ringraziare tutti gli allenatori, tutto lo staff, il medico, tutti quanti che ci accompagnano durante l'anno e soprattutto in queste settimane dove siamo un gran gruppo, siamo tanti amici, quindi questo penso abbia fatto la differenza. Siamo una squadra abbastanza completa perché comunque abbiamo dei soliti giocatori, soprattutto in singolo, ma anche un buon doppio, ci possiamo comunque variare e possiamo adattarci anche a diverse superfici, quindi penso non tante squadre hanno anche questa possibilità. Questi erano Fognini e Seppi, caro Pierluigi Pardo, per un CT che deve ancora scegliere gli attaccanti, un altro che abbiamo in collegamento che invece gli attaccanti ce li ha e non li cambia con nessuno. Ciao Corrado Barazzuti. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti, ieri Murray si è trovato una scusa che neanche Mazzarri ai tempi d'oro, il loro CT urlava troppo. Il loro CT? Cioè, sì. Urlava con chi? Con Murray? Che ne so, ha detto lui. Saresti tu, eh? Saresti tu, ah, eh? Sono io il CT che urlava, non ho capito. Beh, vabbè, pazienza. Voglio dire, sì, come scusa è un pochino debole, forse... No, ma in realtà ho sentito, voglio dire, l'intervista di Murray. Murray ha riconosciuto, insomma, che Fognini ha giocato molto bene, insomma, che ieri insomma Fognini ha giocato uno dei suoi migliori match, quindi insomma voglio dire non insomma, sotto questo punto di vista è stato insomma molto sportivo. Sì, scuse non ce n'è. Quando Pardo, quando Barazzuti a tiki-taka? Io lo vedrei quando vuole. No, io fra l'altro devo dire che il tennis italiano di quel livello lì mi ricorda quando ero bambino, quindi il momento alla Nanni Moretti, mi ricordo le sfide Clerc contro Vilas, io ti favo per Clerc, ma chi se ne frega, probabilmente agli ascoltatori non interessa. Mi ricordo Palante e Barazzuti che insomma in quegli anni lì hanno fatto cose eccezionali. Quanto siamo lontani? Cioè Fognini è uno che può, i numeri sembrerebbero dimostrarlo, insomma può aprire una una lunga fila di annate di un certo tipo, nella quale poi, come sempre succede in Italia, quando c'è il tomba della situazione, si stacca tutto e siamo tutti a guardare. È importante. No, no, certo, Fognini è un giocatore che è il numero 13 del mondo in questo momento, è ancora in miglioramento, ancora in crescita, per cui io ho già detto che Fognini, insomma, è un giocatore che vale i primi 10, ma insomma, per iniziare, per cui credo che certamente potrà fare bene, forse mi auguro che possa anche fare meglio di quello che ho fatto io, di quello che ha fatto Panatta. Certamente Fognini è un giocatore che ha un grande talento, un grande potenziale. Al di là di mille cose un po' glamour che ci sono, ma le ragioni di questo sbocciare totale di Fognini dove stanno? Stanno davvero una serenità personale o ci sono ragioni tecniche o c'è qualcos'altro? Intanto c'è una maturità, cioè di un ragazzo, quindi insomma è diventato un giocatore, insomma una persona molto più consapevole dei propri mezzi, voglio dire, evidentemente ha preso la decisione di provarci con molta determinazione, ha un coach che è uno dei migliori del mondo che lo sta seguendo, sta facendo un ottimo lavoro. Quindi insomma la fiducia di certi risultati che stanno arrivando, e dunque tutto questo naturalmente porta ad avere dei risultati che vengono uno dopo l'altro sempre migliori. Prima diciamo che fino a qualche anno fa dimostrava di avere grandissimo talento, però non sempre non sempre riusciva proprio a esternarlo con continuità. Adesso Fabio ha trovato anche continuità, che è quello che conta poi per avere una classifica che cresce, e quindi adesso lo vediamo tra i migliori giocatori del mondo. Fabio sulla terra battuta, al di là della classifica, che appunto è 13, ma sulla terra battuta secondo me perde con pochi giocatori. A questo sicuro, infatti puntavamo molto anche sul fattore ambientale su Napoli, sulla terra battuta, era casa nostra, abbiamo fatto sentire. Un'ultima cosa, Corrado Barazzuti, ora sotto la Svizzera e Federer, siamo forse Italia del tennis, è un po' come la Roma nel calcio, underdog alle calcagna dei favoriti, senza paura. Non lo so, voglio dire, noi andiamo insomma in Svizzera e andiamo a fare la nostra partita con tutte le buone intenzioni di vincere, ma certo non andiamo lì a farci, voglio dire, una passeggiata, non so dove sarà, a Ginevra o qualche altro posto. Non andiamo in gita sulle Alpi? No, assolutamente, noi andiamo lì, ci presentiamo, giochiamo questo match, e se poi gli svizzeri sono bravi, se giocheranno bene, rischieranno di vincere, se no rischieranno se di perdere. Se no, lasciamo i tre puntini, parlo. Quindi non è che siamo spaventati del fatto che ci sia un Federer o un Wawrinka. In Coppa Davis succedono cose particolari, cose meravigliose, ecco, mio caro CT. Esatto, cose che sconvolgono i valori dei giocatori sul campo da tennis. La Svizzera in questo match ha rischiato molto, sì. Ha dovuto un po' in qualche maniera recuperare, quindi insomma andremo lì e faremo la nostra partita, anzi anche qualcosa di più, certo. poi vediamo il campo cosa decide. Poi alla fine alziamo gli occhi e guardiamo il tabellone. Grazie CT. Forza. Grazie a voi. Dai, belli, non moriamo. Mi piacciono, belli cattivi, cazzuti, guardo. Andiamo in Svizzera, mica a fare la gita sulle Alpi, andiamo lì per vincere, poi vediamo, sono più bravi con loro. Se no, io penso che veramente il livello di penuria, soprattutto a livello maschile, che a livello femminile invece negli ultimi anni siamo andati fortissimo, il livello di difficoltà del tennis italiano, non credo ci sia un altro sport, un'altra disciplina, almeno fra quelle popolari, quelle che comunque hanno milioni di appassionati, che abbia faticato così tanto negli ultimi 30 anni. E quindi insomma dai, forse è arrivato il momento, forza. Primavera, stai lì Pierluigi, ancora 5 minuti, Luca da Roma subito dopo il traffico. Convocati. Roma, Luca, buongiorno. Grazie della convocazione. Grazie a lei. Dica. Io volevo tornare un attimo sul discorso delle convocazioni mondiali. Di Gilardino. Sì. Ci possiamo portare Gilardino in nazionale, ragazzi? Ah, non lo so. Cioè, dica lei. Lei lo porterebbe? No, perché no, io ho un sacco di messaggi che dicono: ma come Gilardino ha segnato in tutte le squadre in cui ha giocato? Come si fa a mettere in discussione? Sì, però io penso, non no, è sua idea. Una convocazione mondiale va fatta in base al rendimento del giocatore nell'arco della stagione che si sta giocando, giusto? Uh-huh. Sì, sì, ma poi non solo così, però, non solo così, Luca. Cioè, sono comunque giocatori sia a destro che Immobile, che comunque sono già stati in nazionale, che conoscono quell'ambiente, che hanno già assaggiato la maglia azzurra, non hanno tantissima esperienza internazionale, però non è che sono le stelle comete che arrivano da Oriente con i Remagi, cioè sono giocatori che comunque di quel giro fanno già parte. No, sì, per carità, però se dobbiamo dare la convocazione ad honorem, allora io sono della Roma, è ok. Ad onore mi piace, alla carriera Francesco Totti a questo punto, vista il movimento che ha adesso. Ma infatti, gioco, secondo me, è una candidatura che ha pieno diritto di cittadinanza, quella di Totti. Cioè, voglio dire, se dobbiamo guardare anche le risultanze di questa stagione, insomma, mi sembra che Gilardino e Osvaldo non stiano giocando la loro stagione più brillante. E dato che i mondiali si brucia tutti in un attimo e conta anche l'abbrivio in cui arrivi, o no, Pier? Cioè, sì. Mi pare che il discorso sia in piedi. Sulla convocazione ad honorem non saprei. No, ma Gilardino sta facendo una buona stagione, non una stagione eccezionale, ma una buona stagione. Ed era nelle gerarchie di Prandelli uno abbastanza, sì, certo, col pass. Adesso sai che Destro e Immobile stanno, secondo me, stanno un po' sparigliando tutto. E anche Toni, volendo. Ma Destro e Immobile sono ancora più freschi come crescita, no? delle ultime settimane, quindi questo potrebbe cambiare le cose. Osvaldo lo vedo nettamente in difficoltà, anche se stiamo parlando di un giocatore abituale nel gruppo di questa squadra, quindi sì. Non lo so, Gila partiva avanti, fino a qualche settimana fa Gila era sicuramente più avanti. Sì, poi ci sono gli exit poll, sappiamo che siamo in periodo di par condicio, dunque a ogni volta, a ogni giornata di campionato c'è il borsino, c'è chi sale, c'è chi scende. Adesso Cassano non sta giocando, dunque in leggera discesa, però siamo sempre lì, sono giocatori che... Botta la caviglia, ragazzi. Come? Botta la caviglia. Botta la caviglia. Niente di grave. Pelle un paio di giorni, in realtà c'era del pessimismo, è rimasto in ritiro proprio come segno di attaccamento alla squadra, ma in realtà già sabato c'erano segnali molto sconfortanti sulla possibilità di rimanere in campo. Diciamo, è rimasto in ritiro per spirito di squadra assieme ai compagni, non perché ci fossero molte possibilità che scendesse in campo. Sono 8 giorni che c'è questo fastidio, ma adesso insomma magari passerà, ecco, insomma. Comunque sì, è una botta, quindi comunque è una botta, non è niente di clamoroso. No, curiosamente stavo dando un'occhiata alla classifica marcatori. A 13 gol troviamo Gilardino, Balotelli e Destro. Mica male come coincidenza. Certo. Antonio D'Alessandria, buongiorno. Antonio D'Alessandria, buongiorno. Grazie. Dica. Premesso che sono un tifoso interista, ho cercato di fare un'analisi che volevo condividere con lei, sì, per capire se i miei ragionamenti hanno un senso. Allora, a distanza di ormai un certo numero di mesi, non è possibile che le vicissitudini dell'Inter siano imputabili a Mazzarri, perché non credo che abbia perso le competenze che aveva. E mi sono fatto, ma non credo peraltro che ci si possa imputare alla mala sorte, come qualcuno ogni tanto sento che fa, perché la statistica a distanza di tempo non credo sia quello il punto. Sì. Ma quindi la colpa di chi è? Abbiamo escluso, abbiamo detto di chi non è secondo lei, ma quindi sì, la colpa, allora, di chi è? Io ho ipotizzato tre idee. Una, o il team dei calciatori non segue quello che Mazzarri dice, o la musica di Mazzarri non è adatta ai suonatori che ha, sì, o terza ipotesi, è quella in cui mi sono un po' più concentrato, che il reparto difensivo non è adatto a una squadra del livello dell'Inter, perché sì, io vedo che è da lì che nascono tutte le problematiche, ed è potrebbe essere quel reparto che poi non dà sicurezza a tutta la squadra. A me sembra che poco sia adatto alla storia dell'Inter, sia a quel livello in questa squadra. Comunque i punti di cui sopra 1 e 2 mi sembra possano rientrare grosso modo nelle responsabilità dell'allenatore. Poi detto questo, ma Pier, ascolta, ma tu quando hai visto quel rigore sabato sera? Ok. Infatti, ma di che quanto, parliamo? Quanti soldi avresti messo su un errore di Milito? Ne parlavamo ieri con Bergomi nella versione sì. Weekend. Io una cosa che magari si può rimproverare a Mazzarri in questo momento di segnali, ci sono, possono essere dei segnali magari così, diciamo, psicologici che Mazzarri sta dando alla squadra che non sono ideali, no? È un po' la sfiga che uno se la chiama da solo e invece deve essere in grado di reagire. Ecco, questo può essere un discorso che ci può anche stare, no? Il fatto che in questo momento in tante situazioni l'abbiamo visto, no? Mazzarri è stato pescato così, scuotere la testa, addirittura rimproverare i suoi giocatori in maniera, cioè, dare un po' l'idea di dove sono finito. Ecco, su questo io probabilmente Mazzarri dovrà riflettere, ma poi insomma sul rigore tirato da Milito, ma di che discutiamo? Ha tirato Mazzarri quel rigore? No, infatti, veramente adesso. No, però considerato com'è il calcio, Pierluigi, dai, era quasi scritto che sarebbe andato in quella maniera. Cioè, io me lo sentivo, tu? Beh, la legge di Murphy, sì. Ma sicuro. Sì, ma cioè, va lì, mette su di scherzo sto rigore che arriva, sacrosanto per la verità, arriva Milito, poi figurati uno che non sbaglia mai, va sul dischetto, bam, parato. Ma quasi normale secondo le bizzarre logiche del calcio. Poi è chiaro che quella non è certamente responsabilità di Mazzarri. È responsabilità di Mazzarri invece aver riproposto una squadra che ne ha beccati altri due dal Bologna, che comunque è estremamente fragile nei nervi, anche nell'impianto di gioco, mi pare. Orlando Torino, buongiorno, va a vedere la Juventus stasera, Orlando? Buongiorno, ma se la guardo, non so se la guarderò, ma se la guarderei dalla... Non ho capito niente, non ho capito niente, mi ripete? La guarda o non la guarda? Non ho sentito. No, non sono sicuro di guardarla perché probabilmente sarò fuori Torino. Ah. Io ho telefonato perché volevo chiedere questa informazione. Sì. A chi è presente. Cioè, sì. Premetto che non ho ascoltato buona parte del programma, quindi può anche darsi. Vabbè, andiamo con l'informazione se possiamo. Dica. Sì. Ma Brandelli nel fare le convocazioni per la nazionale, secondo voi terrà conto dell'effetto che può avere una scena o comunque un'azione come quella di Destro o come quella che in passato ha fatto Balotelli? Orlando, sì, sintetizzando, che abbiamo 30 secondi prima di chiudere l'ora, lascio la risposta a Pardo, buon saluto. Cioè, se vale il codice etico anche per le convocazioni mondiali, stiamo freschi. Ma sì, no, io non credo che varrà. Credo che nell'ultima conferenza stampa, quella nella quale si arrabbiò parecchio Prandelli anche con la questione Conte-Chiellini, aveva chiarito la sua gestione del codice etico, cioè essenzialmente un meccanismo quasi terapeutico nei confronti dei giocatori per evitare eccessi caratteriali, e questa mi sembra la strada. Quindi la mia sensazione è che, a differenza dell'anno scorso quando Svaldo saltò la Confederations Cup per quel famoso tweet e quella famosa grande discussione con Andreazzoli alla fine della finale di Coppa Italia, quest'anno, a meno di cose sconvolgenti, poi alla fine si porta chi dice. Vabbè, ma poi Destro ha fatto un brutto gesto, ma in fondo, cioè, cataloghiamo le azioni di gioco scorrette, brutte, eccessive, però adesso non, ripeto, non enfatizzerei. Ciao Pierluigi, ci vediamo domani a Verona. Domani Verona, tanta roba. Basta, ciao. Ciao. A dopo, insieme un'altra ora fino alle 16. Penso che le aree da migliorare sono più o meno chiare. Oggi è stata una gara difficile, come sapevamo anche prima di venire qui a Bahrain. Addio secondo posto? Sì, per me sì, per me la Roma è forte ancora, noi non vinciamo questo tipo di partita, dobbiamo pensare al terzo posto. Siamo in semifinale, sicuramente sarà uno scalino in più di quello che aveva fatto l'anno scorso, dopo tanti anni, come avete detto, e il gruppo c'è sempre stato. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati ogni giorno fino alle 16, a partire da oggi, da ora. 800 24 00 24 è il numero verde per voi, E voglio parlare tra poco anche di Formula 1, voglio tornare su temi e argomenti calcistici. Mi piacerebbe parlare anche di questa notizia, di questa beh notizia, di questa voce che arriva dalla Spagna, da AS, secondo cui lì, ma avete presente quell'imprenditore che vorrebbe, asiatico, che vorrebbe acquistare il Milan, ci sarebbe un'offerta da 300 milioni per il 51% del club rossonero, che è un po' distante rispetto a quello che si leggeva, cioè 250 milioni per nulla, cioè per il 30% del pacchetto azionario. Andiamo a vedere, Formula 1, voglio parlare di quello. Le aree da migliorare sono più o meno chiare. Oggi è stata una gara difficile, come sapevamo anche prima di venire qui a Bahrain. Il team ha fatto un lavoro super, abbiamo cambiato varie cose da ieri per il problema della potenza motore, tutto ha funzionato bene oggi. La partenza è stata super, il pit stop bene, la strategia ottima, quindi in generale abbiamo tirato il massimo di quello che era possibile oggi, quello che non siamo sicuramente soddisfatti è il livello di performance, non abbiamo fatto abbastanza bene, sappiamo e dobbiamo chiedere un attimo di pazienza a tutto il mondo. Proviamo qui martedì e mercoledì, abbiamo qualche idea da provare, ci sono dei pezzi nuovi in ottica prossime gare, non possiamo parlare di più, dobbiamo solo giorno e notte lavorare perché non stiamo facendo abbastanza bene. Questo era Alonso, la Ferrari non va, questo lo sappiamo, tra poco proveremo anche a capire se c'è qualche motivo recondito. Allora, scrive oggi Giorgio Teruzzi nella sua imperdibile rubrica Barbera e Champagne sul Corriere della Sera, dal Bahrain. Scrive così: pur di fare bella figura con chi paga gli stipendi, pur di far contenti spettatori abbioccati e manager allarmati, si sono presi tutti a cazzotti, quelli della Mercedes, poi Perez che ha messo giù Hülkenberg, Massa che ha messo dietro Bottas e le due Ferrari, e poi soprattutto Ricciardo, è lui la vera sorpresa dell'anno, ancora una volta davanti a King Seb, Sebastian Vettel. E adesso chi negli ultimi 4 anni non ha digerito i 4 titoli di Vettel tratta Ricciardo come giustiziere della notte. Weekend di pugni e schiaffi non solo sul campo a Cagliari, non solo dopo partita di Parma, ma anche in Formula 1. Ciao Giorgio Teruzzi. Buongiorno. Ciao. Sì, si prendono a cartoni e ci siamo grosso modo divertiti. Poi dietro c'è tutta questa trattativa per cui le regole non vanno, soprattutto per chi ha la macchina che non va. Adesso sembra che il problema principale sia quello del rumore. Si parla di aprire gli scarichi, no? Come si faceva con i motorini negli anni 80. Come la è l'unica cosa che possono fare con un'unanimità. Se toccano l'aspetto tecnico, ovviamente chi vince, come già da Mercedes, dice è stato un piacere, grazie, poi ne parliamo un'altra volta. Giorgio, ma il Gran Premio però non è stato male stavolta. No, bellissima corsa, cioè bisogna accontentarsi, nel senso che i due della Mercedes quando è entrata la safety car avevano un minuto di vantaggio, no? Quindi insomma le belle corse sono quelle che hanno anche quell'incertezza di su chi vince, però rispetto alla media di quest'anno molti duelli, è un po' il tema dell'anno, no? Cioè ci saranno tutti duelli tra compagni di squadra, visto che le macchine vanno a onde, a comparti, a due, quindi almeno si fanno un po' di spettacolo i due compagni di squadra che hanno macchine simili. Sì, ma Giorgio, tornando all'argomento di cui sopra, ma il vero problema è proprio quello del rumore, cioè è così determinante sentire il rumore, c'è bisogno di fare questa finzione di commissionare una ditta esterna, quello di aprire gli scari, a me sembra più un problema quello dei piloti tassisti, come è stato scritto, cioè quello di limitare il consumo, che a un certo punto di andare piano in Formula 1 si va e ci si scanna tendenzialmente. Sì, beh, insomma qui il discorso è un po' complesso. Allora, secondo me non è il rumore, però per i ragazzini magari, o per chi sta in tribuna, che è abituato a queste, sta nella tradizione della Formula 1 sentire un rumore inatteso, inaspettato e soltanto lì. Quindi questa cosa, va bene, capisco che a qualcuno possa dar fastidio il fatto di non avere un rumore come l'anno scorso, però il problema è ben altro, cioè il problema è che c'è un regolamento che premia moltissimo, visto la sua complessità, chi ha un'esperienza, per esempio con la Mercedes, molto importante anche sulle auto di serie, cioè su quei sistemi lì. E poi però possiamo pensarci un po' prima, è un po' tardi per dire adesso cioè sono 3 anni che lavorano tutti su questo progetto, sì. Così è. E possiamo dire che al di là delle battute di Montezemolo sono macchine da elettricisti queste, al di là di questa battuta, dato che sono 3 anni che lavorano su queste macchine, su questo progetto e che stiamo girando intorno all'argomento, la Ferrari che non va mi sembra il cardine di questo inizio stagione. Devo dire, secondo me adesso non voglio far quello che, però l'annata, se parliamo di campionato del mondo, è da chiudere qui, cioè non ce la fa nessuno a recuperare sulla Mercedes, secondo me, con questo vantaggio e con la potenzialità che hanno anche loro di migliorare la macchina. Poi dietro sono tutti vicini, una gara va meglio uno, una gara va meglio l'altro, però parliamo dei posti dal secondo, dal terzo in giù. Loro hanno dei problemi di erogazione, di trovare potenza, perché qui consumano tutti uguali, la benzina è uguale per tutti. Hanno il problema di trovare potenza con quella benzina lì, sono lenti, 20 km quasi qui in Bahrain, che è proprio la pista peggiore per la Ferrari rispetto a Williams e Mercedes. Dovranno lavorare sull'elettronica, è lunga, è dura. Sì, è lunga, è dura, però rimane sempre il punto, cioè Alonso, allora io difendo sempre Alonso che per me è il più bravo di tutti, però è mi sembra 6 anni, no, lì? Una mezza carriera. Quinto anno. Sì. Lo stesso, una mezza carriera ad inseguire gli altri, a fare tutto il possibile, a scannarsi per arrivare quarto, quinto, eccetera. Poi si lamenta, dice: ah, però sogno di avere il mio compleanno l'anno scorso la Red Bull, magari quest'anno la Mercedes. Intanto è sempre dietro a tutti gli altri. E se si lamenta, lo bacchettano. Sì, il problema è questo qui, cioè lui ha sbagliato, come dicono quelli che la sanno lunga, il timing, no? Sì. Cioè la misura di Vettel paradossalmente la sta dando Ricciardo. Il fatto è che se tu becchi una macchina vincente, c'è il culo, cioè prendi quella macchina lì e fai magari 5 mondiali, 4 mondiali, 3 mondiali. Sì. Lui ha beccato una fase oggettivamente critica e siccome è il più bravo di tutti, anche secondo me è il più bravo di tutti, si alza al mattino e gli girano un po' le balle. Sì. E io lo capisco, sì, anche abbastanza, insomma. Sì, sì, però insomma, fino a un certo punto, perché gli sfigati sono altri, Già, ma ovviamente stiamo sempre parlando di valori assoluti, perché altrimenti ogni volta che si sveglia fai il segno della croce con la sinistra, perché fai uno dei mestieri più belli del mondo, questo. Insomma, però è vero che fa fatica. Il problema è che adesso, guarda, qui già prima della terza corsa hanno sparato in Spagna che di un'offerta, sarà un anno in cui ne vedremo di tutti i colori, ormai poi con internet basta scrivere, chi se ne frega se verifichi. Ah, certo. Per cui ci saranno tutti a dire va via, però non è semplice, perché qui non è che vai in un posto dove sicuramente vinci, cioè tutti parlano della McLaren che avrà i motori Honda, sì, vedremo, perché la Honda torna in Formula 1 dopo molti anni, con una complessità anche per lei, insomma, col rischio poi di andarvi nel momento più propizio, no? Cioè, è difficile, è una posizione difficile, è un matrimonio difficile, perché ci sono ambizioni e pressioni enormi a dispetto dei risultati, insomma, francamente è complicato. Senti, un'ultima cosa, Giorgio, prima di dare appuntamento con te ai nostri ascoltatori per uno dei prossimi giorni, quando avremo delle cose insieme, avremo delle cose bellissime, molto interessanti da raccontare. Io vorrei un'ultima tua battuta sul guerriero della notte. A me Ricciardo fa impazzire, onestamente. Io sono uno di quelli che Vettel bravo, per carità, ma non mi entra nel cuore. Quando vedo questo che lo bastona, sono abbastanza contento, per dirla fuori dai denti. No, secondo me lui è veramente la sorpresa dell'anno, perché eravamo tutti pronti a vederlo un po' in affanno con uno così di fianco, tra l'altro lì nel vincente da 4 anni. Invece ci prova sempre, ci riesce quasi sempre, perché poi non è che è uno che va forte e fa delle maronate, è uno che va forte e sta in strada, ha una bellissima faccia da ragazzo che se la gode con un sorrisone. È vero. È una bella notizia questo ragazzo qua, è uno che darà movimento, lo sta già dando, un po' a dispetto della classifica, perché è stato squalificato quando è arrivato terzo per colpa non sua. Gli hanno dato l'ergastolo per una ruota non avvitata, quindi anche qui è partito 10 posizioni indietro, davanti a Vettel anche in prova. Insomma, bravo, proprio bravo. Grazie Giorgio, ci sentiamo domani privatamente, poi diamo appuntamento al Pueblo. Grazie. A voi, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Dunque, prima di Luca da provincia di Milano, cosa abbiamo? Cosa sentiamo? Cancellara. Parte adesso Cancellara, è lui il primo a rompere gli indugi. Parte Fabian Cancellara, prova a rispondere Greg Van Avermaet con Fabian Cancellara, che è davanti a tutti. Fabian Cancellara, Cancellara nella storia! Nella storia, Fabian Cancellara, la terza vittoria alla Fiandre per lo svizzero, per Fabian Cancellara, che ha disputato ancora una volta una corsa eccezionale e allo sprint se li è messi tutti dietro. Tra le altre cose, in questa imperdibile domenica che abbiamo vissuto, Luca dalla provincia di Milano, buongiorno. Ciao, Luca, e volevo farti due domande, una sulla Formula 1 e una sul basket. Vai, schema libero. La Formula 1, non so, io non riesco più a appassionarmi, ovviamente ti simpatizzo per la Ferrari, però la Ferrari mi sembra che fanno apposta a fare le macchine non competitive. Sì, sicuro, ci scommetterei, guarda, spendono una barbarità di soldi ogni stagione, eccetera, per prenderle da tutti, godono come matti. Ma poi mi sembra tutto, a un certo punto Ricciardo, che sta davanti al 4 volte campione del mondo, nei Mercedes, che di punto in bianco diventano imprendibili. Cioè, non so, mi sembra quasi combinata come cosa, capito? Non riesco più a appassionarmi a vedere un Gran Premio. No, ma non se non riesci più a appassionarti, magari perché non so, tipo la Ferrari non vince ormai da molte stagioni, eccetera. No, poi... ma non è neanche quello, davvero, mi sembra quasi che ci sia dietro un disegno politico la Mercedes quest'anno escluderei. Sai cosa? Che loro sono molto più bravi degli altri, ma questo grosso modo si sapeva. Sono 3 anni che lavorano su questa macchina, su questo progetto, sulle regole nuove, eccetera, e hanno bagnato il naso a tutti gli altri. Quest'anno sono una macchina imprendibile. Resta da domandarsi perché gli altri non siano riusciti a sviluppare, pur essendo a conoscenza esattamente come la Mercedes del cambiamento delle regole, perché non siano riusciti a sviluppare le macchine come la Mercedes ha fatto. Sto parlando ovviamente di quelli con tante risorse, come ad esempio la Ferrari. Poi? E poi niente, ero al forum ieri, tifoso di Cantù, e questa Milano qua, bella partita. Mi spiace dirlo da canturino, ma fa paura, fa veramente paura, perché ha una panchina esagerata e ha 2 o 3 giocatori in ruoli chiave che sono una cosa mostruosa, tipo Hackett, tipo Moss, e... Non vorrei essere gufo, perché dopo vengo, magari qualcuno mi insulterà, qualche milanese, da Canturino. Ma rischio di arrivare alla finale di Final Four, secondo me di arrivare alle finali di Final Four, e per di più, se vogliamo fare i conti della massaia di Voghera, vincendo sempre in casa, che succede? Succede che Final Four sono a Milano, in campionato avrà il fattore campo in tutti i playoff. C'è però una tegola su Milano, proprio ieri sera nel derby con Cantù, meravigliosa partita, si è fatto male Alessandro Gentile, che i quarti di Eurolega col Maccabi non li giocherà, come dice Banchi. È difficile perché è di natura muscolare, quindi è difficile fare delle previsioni, dobbiamo rimandare tutto a esami strumentali, però il ragazzo è uscito dal campo decisamente dolente, la situazione, il trauma patito in gara purtroppo ci fa temere che possa essere un infortunio vero e non soltanto un episodio da gara, qualcosa di più, anche perché per come si stava profilando la gara credo difficilmente avrebbe accettato l'idea di uscire, se non fosse stato proprio impossibilitato a continuare. 800-24-00-24, ogni giorno insieme fino alle 16. A proposito, ovviamente Giuggette Lesforo rimane con noi, anzi avrà spazi molto più ampi per la sua meravigliosa musica il sabato alle 19 e la domenica alle 15.30 e poi alle 19, quindi sabato alle ore 19, domenica ore 15.30 e ore 19 con Giuggette Lesforo. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Com'è il tempo a Venezia? Ma guarda, c'è un bellissimo sole, ti telefono dalla terrazza. Ma che meraviglia. Purtroppo ho quattro gambe perché ho il gesso e le stampelle. Che è successo? Però, corro meglio. Che hai fatto? Un calcio dato male. Un calcio dato, spero al pallone. No, dato male. Ok, va bene. Oddio. Ma comunque sono male, va bene. Ma hai incontrato De Laurentiis? No, avrei voluto incontrare Mazzarri. Vabbè. Vabbè, ma comunque sono quelle esperienze che ti fanno ricordare la prossima volta quando perdi la pazienza. Sì. Mi ricorderò al mio calcagno. Comunque, insomma, nessun problema. Ascoltami, allora, qua c'è qualcosa che io non capisco, mi è sfuggito qualche cosa. Cioè, sì, voglio dire, se io vado a lavorare e al mio capo, al mio dottore di lavoro dico che ho avuto sfortuna. Stai parlando di Mazzarri, vero? Abbiamo presa la lontana, ma so che stai parlando di Mazzarri. Esatto, i miei tweet lo testimoniano, guarda, perché io però nutro rispetto per i vincenti e per i perdenti, sia chiaro. Perché lui fa il suo lavoro, lo fa bene, è serio, è un professionista serio, però io tutto questo curriculum vincente, io dove me lo vado a cercare io, mister? Cioè, voglio dire, abbiamo Botta, abbiamo Kovacic, abbiamo fiorfiore di giocatori che in Premier League e Coutinho nella proga vengono buttati in guerra e riescono anche a fare gol, a fare prestazioni, performance importanti, ad acquisire valore, ad aumentare il valore di una squadra, no? Di un budget che poi tu rappresenti, no? In piccola parte. Ecco, io mi chiedo. Ale, però aspetta un attimo, stiamo parlando di superstar, li vediamo. Kovacic, fin qui sembra quasi che Mazzarri riesca a trovare la posizione giusta, no? Non si capisce ancora bene cos'è. È potenzialmente un crack, è un giocatore di grande talento, è molto giovane, eccetera, però non ha mai impressionato. Pienamente d'accordo. Stiamo cominciando a vederlo adesso. Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però se c'è un pregio di Mazzarri che tutti gli interisti hanno riconosciuto, credo anche tu, è stato quello di aver rivitalizzato Alvarez, Jonathan, che era carne da spiaggia, è diventato improvvisamente un buon giocatore, e sono buoni giocatori, certamente non sono i giocatori che ti fanno fare salto di qualità, quindi quelli ho l'impressione che all'Inter manchino. Non è una questione di reparti, come si diceva prima, non è la difesa, non è il singolo reparto, è il fatto che a questa squadra manca tremendamente qualità. Quello che non capisco è come, insomma, questa Inter non abbia la faccia, se vogliamo, anche feroce, agonisticamente feroce, che di solito hanno le squadre di Mazzarri, e il motivo un po' mi sfugge. Senti, sai che cosa ha detto? Tu rivolesti Mourinho, immagino. Mourinho se lo portiamo nel cuore, voglio dire, ma ti dirò, io credo che un Inter come questa, con le stesse potenzialità, data in mano ad un Ciolo, data in mano ad un Sinisa, data in mano ad un Mancini, data in mano ad un Mourinho anche, esageriamo, andiamo a tema di esageriamo totalmente, sì. Ok, anche se comunque non c'è mai fine all'immaginazione, non si sa mai. Però voglio dire, ecco, in mano a personaggi del genere, io non avrei mai, credo che non avrei mai potuto sentire frasi del tipo. Questo anche a me non piace l'atteggiamento di Mazzarri. Poi, insomma, adesso è chiaro che stiamo parlando di Simeone, che pur avendo vinto non tantissimo in carriera, ancora è forse il miglior allenatore europeo della stagione. Mihajlovic, io ho votato l'altro giorno come miglior allenatore italiano di quest'anno. Prima ho citato Mourinho perché ne ha detto un'altra bella, ve la racconto dopo la borsa. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Pallone dentro per Riccardi, Riccardi in area di rigore, la rimette in mezzo, Palazzo si tira, la palla rimane in rigore, non ci credo, non ci ha dato rigore. Non ci credo! Parte Milito, Curci si esalta, arriva Icardi e il pallone finisce fuori, il miracolo di Curci! Occhio Malocchio, pezzemolo e Finocchio, e come battizzo contro il Malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingororrente. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremato, proteggi questa casa dall'innominato. Tutti convocati. Il tempo corto di un dubbio per poterli cantare. Due ore ogni giorno per tutti i convocati. 800 24 00 24, numero verde. Altri numeri: soundcheck, Gigi Tresforo, sabato alle ore 19, domenica alle 15.30 alle 19. Numeri non ne ho più. Adesso chiamiamo invece un numero di telefono di Cuneo, perché ho ricevuto ora un sms di Carmen: non riesco ad essere convocata. Ma come? 800 24 00 24, chiamate tutti. Allora, sono rimasto in sospeso con la storia di Mourinho. Battuta di Mourinho: è stata chiesta ragione della sconfitta nel turno non l'ultimo quando ha vinto, ma quello precedente in casa del Crystal Palace, certo avversario non irresistibile. Ora il Liverpool, che ha vinto anche ieri, conduce il campionato inglese con 2 punti di vantaggio sul Chelsea, ma ci sarà Chelsea-Liverpool. Ebbene, a Mourinho è stato chiesto: ma come mai con questi avversari un po' così in trasferta qualche volta le buscate? E lui: ma i miei giocatori non riescono a capire che non si può andare a un matrimonio in blue jeans. Questo per dire che non sono capaci in questo momento di adattarsi alle situazioni, e quindi a partite di questo tipo, che magari non offrono grandi emozioni e grandi motivazioni. Restiamo in ambiente Inter prima di andare a Novara da Filippo, perché oggi c'è stato Tuir, che è stato interrogato sul futuro di Mazzarri. Ebbene, lo ha di nuovo confermato. We don't have any problem. I think our relation, the job will continue next season. But it's very important, you know, we prepare for next season, and then of course we're gonna recruit more players, but at the same time we don't to, you know, recruit the players not the same vision with us. You know, I think it's important. And you guys already know some of the players that we're talking. Dunque Tohir conferma Mazzarri, ma a quanto pare a prescindere dal risultato minimo, cioè la qualificazione all'Europa League, anche se io resto convinto che alla fine della stagione mi sbaglierò come al solito, direte voi, lo so, state già scrivendo tutte le vostre cose di sms 349-238-6666, ma parlate con me, chiamate, perché invece di scrivere queste cose qui, come, va bene, lasciamo perdere, invece di scrivere chiamate, che facciamo prima, è più bello avere un dialogo piuttosto che leggere i vostri messaggi. Bene, resto convinto del fatto che Inter e Milan alla fine, secondo me, in Europa League ci andranno in un modo o nell'altro, perché io vedo l'Atalanta ieri sconfitta da Sassuolo, ma dopo Torino, Parma, Verona, queste squadre che dal punto di vista del gioco secondo me meritano certamente di più rispetto all'Inter e al Milan. Però vanno un po' come Icaro, no? Arrivano vicini al sole, poi si sciolgono un po' le ali, cadono. Non so in questo quanto ci sia di inconsapevole o di volontario, perché resto convinto che per club di questo tipo affrontare l'Europa League non sia una cosa semplicissima da molti punti di vista. Paro malizioso, può darsi. Filippo, provincia di Novara, buongiorno. Ah, buongiorno, buongenta. Buongiorno a lei. Sabato sera mi sono veramente divertito. Cioè? Sono andato a vedere una bella partita di basket, che è uno sport che ho sempre trascurato. Cosa ha visto? C'era la nostra squadra che gioca in Serie C, la Pafoni Omegna, contro la Fortitudo Agrigento. Ah, però. Abbiamo vinto di buona lunghezza, cioè. E poi c'è questo americano che hanno comprato, il primo americano che arriva sul Lago d'Orta, un certo James, che veramente... spettacolo. Non conosco, ma mi informerò. Quindi si è persa l'Inter. Insomma, pensavo si fosse divertito guardando l'Inter, invece no. Ho visto alla fine, perché poi ero in mezzo ai Juventini che puoi immaginare il delirio. Non ho trascurato il calcio tutto il fine settimana, quindi mi sono dedicato al basket, che mi sono divertito di più, e va, sono veramente il prezzo del biglietto, una bella partita, divertente, bello, bello. Adesso sembra che c'è una trasferta a casa al Pusterlengo, quindi anche mi aggrego. Quindi facciamo un promo per il basket. Voleva dire dell'altro? No, solo questo. D'altra parte il basket a me lo dice. Sport che mi diverte di più in assoluto, però vabbè, poi ognuno sceglie il passatempo che vuole. Secondo me la sua scelta è eccellente. Ma Carmen, buongiorno, ma come? Cosa mi scrive? Ho chiamato parecchie volte, forse non c'è mai tempo. Cosa mi scrive? Non convoca le donne, ma come? Scusi, io ho la tendenza a mettere battute dappertutto. Fa benissimo. Allora, adesso attacco. Mi ascolti lentamente, dico le tre cose in due minuti, poi commenta. Allora, prima cosa, ho conosciuto bene il suo predecessore, mi sente bene? Sì, la sento. Perfetto, al Salone del Libro di Torino. Sì. Siete entrambi, siete diversissimi, ma entrambi persone notevoli. Grazie. Di lei apprezzo molto il linguaggio pittoresco. Grazie. Ma siete entrambi notevoli, nessun confronto, né più né meno. Grazie. Seconda cosa. Io sono un po' schifato o stufo, non so che parola usare, sì, di sentire cose come quelle che sono successe ieri, le pietre. Come mai in Inghilterra queste cose? Probabilmente, io credo, dopo la tragedia, si ricorda, 85 l'anno. Ma mi perdoni Carmen, ma che cosa si riferisce? A quale episodio si riferisce di ieri? Mi riferisco all'episodio che ho sentito al GR vostro, di una persona presa a sassate fuori dallo stadio, sbaglio? Sì, episodi di cronaca, purtroppo di cronaca abituale del lunedì. Ecco, allora, cronache abituali, perché in Inghilterra, io so, credo di sapere, che i club inglesi, poi lei persone abituate, ma potrei anche darvi del tu, sono più grande di te, perché i club inglesi sanno tenere a bada i tifosi, e in Italia questa cosa non succede. Io penso che la cosa succeda, cioè, sia partita, poi ho quasi finito, dopo la tragedia del 1985, si ricordi, in Olanda, allo stadio? Sì, ma in Inghilterra ce ne sono state diverse, eh? Hanno avuto una lunga e dolorosa storia di problemi di ordine pubblico, di scontri, di incidenti gravi, di morti, eccetera, quindi sappiamo bene come sia la situazione attuale affonda radici in un passato molto difficile dell'Inghilterra, poi siamo sempre lì a paragonarci a loro, ma il sistema è differente, gli stadi sono differenti, poi problemi di ordine pubblico, noi magari non studiamo attentamente la cronaca che ci arriva dal paese, però ci fermiamo alla superficie della Premier League, al di sotto della Premier League hanno ancora dei problemi di ordine pubblico, quindi non è che lì sia l'Eden, non è che sia il paradiso in terra. Certamente sono stati molto bravi a costruire un sistema degno di questa epoca. In Italia siamo ancora un po' indietro, mettiamola così, giusto per non esagerare. Lorenzo Firenze, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. La mi dica. Allora, io sono un tifoso viola, chiaramente, però volevo intervenire su il fatto di Mattia Destro di ieri. Per me sembra abbia fatto una cosa molto molto brutta e molto grave. Non c'è dubbio che abbia fatto una cosa molto brutta. Le trasmissioni, sia radiofoniche che televisive, lo mettono in secondo piano, invece secondo me gli ha dato un bel sinistro voluto e sì. Secondo me minimo dovrebbero essere 5 giornate di squalifica, poi. Ma 5 mi sembrano tantine, Lorenzo. È stato un corpo a corpo, questo gli ha dato un colpo. Gli ha dato un colpo a tradimento proprio, l'altro non ha visto niente. Io ora non voglio essere lui, però a Bocca Valero gli aveva dato 4 giornate per niente. Se l'arbitro dice o non allora, dice, io posso dire, a me ha dato, guardi, sono molto sincero, mi ha dato molto più fastidio, sempre per quanto riguarda quell'episodio, il fatto che Astori dopo abbia reagito a quel colpo allargando il braccio eccetera, colpendo Destro sul petto. Mi ha dato molto più fastidio il fatto che Destro si sia buttato per terra tenendosi le mani in faccia. Ecco, quelle cose lì non le sopporto. Se poi ci sono dei contrasti anche duri di gioco, anche ineleganti, anche irregolari, anche borderline cattivi, mettiamola, scegliete voi l'aggettivo. Guardi, arrivo a dire che mi dà meno fastidio quello rispetto a, a certi episodi in cui ti colpiscono su una spalla, tu ti butti per terra e ti copri la faccia, rispetto a, alla sceneggiata col pallone fuori e buttate fuori quel pallone perché sennò non siete sportivi. Quelle cose lì, quella falsa ipocrisia, a me fa venire la pelle d'oca. Poi è chiaro che Destro ha dato una manata da story, è stato un comportamento agonisticamente violento, certamente sopra le righe, certamente meritevole di una sanzione. Vediamo se arriverà con la prova televisiva, punto e stop. Cioè non mi sembra il caso di, ripeto, di sottolineare con eccessiva enfasi questo durissimo, violento contrasto di gioco. Strade. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Tutti convocati. Paletta porta su il Parma con questa iniziativa di Cassani, mette in mezzo, attenzione, che gol che ha subito il Napoli, mamma mia, io non ci posso credere che il Napoli si lascia sorprendere in questo modo, che si faccia trovare impreparato così, ma che gol che subiamo, che gol. Questi gol ci fanno invecchiare di 5 anni. Addio secondo posto? Sì, per me sì, per me la Roma è forte ancora, noi non vinciamo questo tipo di partita, dobbiamo pensare al terzo posto. Tutti dobbiamo capire che il terzo posto è importantissimo e per questo dobbiamo preparare la prossima partita con questa mentalità. Dopo avrà tempo per preparare la partita con la Fiorentina, ma la Lazio sarà una partita difficile e l'aspetto positivo è che al San Paolo e con le tifosi a fianco sicuro che l'atteggiamento sarà positivo e sarà giusto. Pugni e schiaffoni, leitmotiv di questo primo lunedì di a tempo di tutti convocati extra large fino alle 4, 800 24 00 24. Ciao Boris Sollazzo, come stai? Boris, dove sta Boris Sollazzo? Pronto? Ci sei? Sì, certo che ci sono. Che pensavo fossi svenuto. No, ero stato censurato da chi lo sa, da qualche antinapoletano. No? Altrimenti ci arrabbiamo. Bud Spencer, Terence Hill. Potrebbe essere un film adeguato a lunedì sera. Cosa ne dici? Beh, sì, assolutamente sì. Devo dire che quello che abbiamo visto ieri e che ha stupito molto è un Benitez mai così arrabbiato, così nero. Come quando gli hanno fatto vedere la reazione di Higuain, come quando ha detto sì, basta secondo posto, ovviamente noi perdiamo questo tipo di partite, a chi lo considerava troppo tenero secondo me ha dato un'altra risposta, cioè sa arrabbiarsi, e credo che oggi non l'abbiano passato una buona giornata i giocatori del Napoli. Siete una cosa incredibile, a me il Napoli piace, è fresco, è divertente, ma è anche dissoluto in una maniera quasi inaccettabile. Non puoi essere così diverso da una domenica all'altra e avere questi sbalzi d'umore. Vale per il Napoli e magari anche per il press, eh? Perché il presidente, qualcuno dice avete fatto di tutto per dar ragione a Marotta, qualcuno di cattivo, di malizioso dice hanno fatto di tutto per dar ragione a Marotta. Ma io parto dal presupposto che se 4 giorni dopo una sconfitta un dirigente di una squadra avversaria parla ancora di quella sconfitta, il provinciale non sono io che ho smesso di parlarne lunedì stesso, però va bene così, quello proprio io su Marotta non giudicherei, perché insomma mi fa molto sorridere, per dire, tutti quei giornalisti che se la prendono con Destro per non parlare di noi, che fa un certo tipo di gesto, e quando lo fa Tevez dice che comunque è un grande campione, ogni tanto capita. Mi sembra che ci sia una forte diversità di giudizio a seconda di chi sia il protagonista. Ieri è successa una cosa abbastanza spiacevole con De Laurentiis, che si dice a Roma ha imbruttito un tifoso, e una TV che non ha ricevuto interviste dalla società ha fatto diventare un alterco un'aggressione. Francamente, insomma, non vado fiero di quello che ha fatto De Laurentiis, ma non mi sembra molto diverso da quello che hanno fatto più o meno quasi tutti i presidenti o gli amministratori delegati nelle tribune. Insomma, questo casino per i Galliani e compagnia non si è mai fatto. Beh, insomma, non è che si merano tutti, Boris. Me lo sono rivisto diverse volte, là non è che si alzano le mani, là c'è proprio un contatto semplicemente aggressivo, ma ci sarebbe una denuncia se ci fosse stato un contatto. Sì, comunque l'ho detto prima, ed è da una notizia ufficiale che arriva dall'ufficio stampa del Napoli, deve essere stata una telefonata, insomma incidente diciamo diplomatico, se non archiviato sulla strada dell'archiviazione. Il Napoli invece resta dissoluto. Cioè, si concede a chiunque. Sì, il Napoli è dissolutissimo. Credo che sia anche il bello di questa squadra, da una parte, nel senso che con Mazzarri, che ripeto, io non rinnego, avevi sempre l'impressione che lui facesse miracoli con giocatori non particolarmente forti, che però più in là non si potesse andare. Con Benitez vivi momenti di alti e bassi, però hai sempre l'impressione che il futuro sarà roseo. Io tra i due continuo a preferire l'altro. Sono contento. Il Napoli di Mazzarri ovviamente l'hai conosciuto a memoria, studiato, scandagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'Inter non sembra una squadra di Mazzarri, perché secondo te? Ma perché la guardi negli occhi ed è diversa, non ha quel fuoco. Perché abbiamo giudicato male, secondo me, anche Stramaccioni e lo stesso Benitez, perché Milano, se possibile, è un ambiente, la Milano nerazzurra soprattutto è un ambiente peggiore anche di Roma e Napoli, e so di che cosa parlo, nel senso che veramente è una specie di porto delle nebbie in cui si perde persino Mazzarri. A me il Mazzarri che si chiede se lo stanno facendo apposta, il Mazzarri che attenta la bottiglialete, non è il mio Mazzarri. Io gli ho voluto un gran bene, ma lui sembra proprio essere stato svuotato. Io non pensavo che qualcuno potesse togliergli, scusa se lo dico alla napoletana, quella cazzimma che aveva e che noi adoravamo tanto, e invece spero per lui che si rimetta presto, perché potrebbe veramente essere risucchiato dall'Inter. Lì, tranne Mourinho che l'ha domata come se fosse un toro, sì, nessuno è riuscito a... Beh, Mancini ce l'ha fatta. Boris, rispondi a questo tifoso che mi manda orora una email. Allora, sì. Napoli, spesi 100 milioni, peggiorata la classifica rispetto all'anno scorso, mi sembra un bel flop. 100 milioni è sempre il solito discorso che là pure si faceva con Conte, sono conti che non tornano, perché se vediamo il primo anno di Conte ha dilapidato letteralmente un patrimonio di giocatori, Amauri, Krasic, Diego, tutti i giocatori che poi hanno fatto bene altrove, e lui ha fatto buttare alla società fior fior di stipendi e ha svalutato Cartellini. In compenso il Napoli ha fatto sì 100 milioni di campagna acquisti, incassandone però 80. Mi sembra che sia una squadra che in tutti i suoi acquisti abbia dato valori d'eccellenza. Calleon, Mertens, Higuain, anche se non segna da 5 partite, Jorginho, Goulam, persino Enrique. Insomma, forse solo Raul Albiolli in questo momento sta venendo meno. Sono i vecchi che forse non sono così. Ma soprattutto c'è questo mistero Arsi che io continuo a non comprendere, a non capire. Secondo me è lui il grande assente della stagione. Sappiamo quale sia il peso specifico di questo giocatore nel Napoli. Era nel Napoli di Mazzarri, sarebbe dovuto essere anche nel Napoli di Benitez, non c'è mai riuscito. Boris, grazie. Grazie a voi, a presto. Ti abbraccio, grazie a Boris. Ciao. Sollazzo. Eh sì, in realtà la Juventus ha speso molto prima delle racconte, poi ha cominciato ad indovinare acquisti dei giocatori. Intanto stasera la vediamo, perché stasera io non credo che stasera alle 21 potremo leggere questa classifica in controluce che dice che come tutto è ancora riaperto. Io sono ragionevolmente convinto del fatto che la Juventus batterà il Livorno. Quanto a Genoa-Milan, vediamo. Tra l'altro, notizia di oggi, pare che Balotelli non giocherà all'influenza. Tanto domani ne parliamo. Domani presenti a Vinitaly, come sempre, da oggi in poi, dalle 14 alle 16, in diretta da Vinitaly. Balotelli? No, Balotelli è non pervenuto, ve l'ho detto, probabilmente non gioca stasera. Franco Biontini, autore di questo programma, Roberto Scheletri, Tinegia, ciao a tutti, a domani alle 2. Out. No, no, no! No. Non è vero, ha preso il gesso, Pascal, ma come fai a dire tutto, mi dai warning? Come fai a darmi warning, per favore? Come fai? Dai, com'era? Franco, dai. Ha toccato il coso, il touch the white one. Sì, touch the white one, ossia, non ne è. Come cazzo fai, madonna, oh madonna. Sì, c'è niente.